riconosciuto tu. Ah, hai visto? Abbiamo tutte e due orecchio. Buonasera Giulio, dai. Sto aspettando qua che cuociano questi involtini in primavera. Pensa che dobbiamo ancora pranzare, eravamo al mare oggi, ma c'era un vento e il mare era mosso. Però dopo tutto si stava anche bene, nonostante il vento forte. Sì, perché c'è caldo, c'è molto caldo. E beh, ubriaco è tragico. Nel senso. È bene a parte. Il calore. Però quando è così al mare non è che fa molto bene. Perché solleva sabbia, la fastidia all'ombrellone, tutte queste cose. Poi il mare è agitato. Ciao anche a Natalino che era all'ascolto mio, ma nessuno chiama. Hai visto, ci voleva Giulio a fare un fischio, io ho risposto. Comunque sai perché non sentivamo sabbia? Perché eravamo sempre vicini alla riva, noi non ci mettiamo mai lontani dalla riva. Ci piace più la riva, insomma, pochi metri siamo lì. Mamma si è fatta il bagno, io non ho avuto coraggio, perché poi il vento mi avrebbe raffreddato addosso l'acqua. Insomma, siamo stati pochino, un'ora e mezza. Abbiamo mangiato tramezzino a testa, abbiamo bevuto addirittura hanno fatto la birra al limone analcolica. Quindi, oltre che al limone, che è buona, è pure analcolica e non ha effetti psicotropi, come chiamo io. Ok, poi siamo tornati, siamo andati a Lido, abbiamo preso questi involtini primavera che sono prefritti, diciamo. Io quando li prendevo dai cinesi, fatti al momento, erano buoni, sono verdure. Questi vediamo come saranno, roba confezionata, ma non credo che siano cattivi, dai. Abbiamo portati da Lido. Ok, e quindi purtroppo vi devo salutare. Ciao Giulio, ciao Natalino, dai, io sto ultimando la cottura, poi devo impiattare, come si suol dire, eccetera. Non so se ci sentiremo dopo, dai, io lascio comunque il tuo acceso, poi riprendi Natalino. Ciao, ubriacone tragico, ciao Giulio, buonasera, ben sentito. No, io non ero all'ascolto perché ho chiamato prima, non mi ha risposto nessuno e me ne sono andato a coricarmi un po', perché ero tutta la mattina attaccato al computer. Dai, riprendi con Giulio, fate un paio di passaggi, dai, io devo tenere d'occhio la cottura di queste cose, dai, comunque ritenete i salutati, dai, se adesso mangiamo, ok? Alla prossima, oppure dopo, vediamo, se riesco a non farmi venire l'abbiocco. Dai, fatti la faccia dopo mangiato, e prenditi un bel caffè, vedrai che l'abbiocco non ti viene. Va bene, togli quei panetti che si mettono nel frigo per formare il ghiaccio, e li metti sotto le ascelle e ti tiene sveglio di sicuro, dopo mangiato magari, no? Bravo, ciao Natalì, questo è l'ora del pranzo per Marco, per cui lasciamolo fare, dai. Infatti lasciamolo fare, ciao, se lo fa il peggio, c'è il cane sta abbagliando, boh. Lasciano abbagliare il cane, cosa deve fare? Tu che abbagliati, solo quello sa fare il cane, non sa fare altro. E ha sentito qualcosa evidentemente, ha sentito. Gli involtini di Marco. Marco prepara 5 o 6 più di involtini per il cane di Natalino. Dopo glieli porti, così lo fai felice. Ditemi tutto che ero lontano. Ho detto il cane stava abbaiando, che cosa deve fare il cane? Solo abbaiare, no? E poi ha sentito gli involtini, è per quello che magari vuole gli involtini anche il cane, capito? Preparano il 5 o 6 in più e poi ne riporti al cane. E al cane piacerebbero quelli, come si dice, quelli alla carne. Perché mentre i veri involtini primavera io li ho sempre solo conosciuti di verdure, no? Buoni anche, molto buoni. Questi di Lido li hanno fatti anche alla carne, per chi piace, o verdure più carne, no? Quindi al cane magari alla carne piacciono di più. poi un involtino, cioè gli involtini cinesi non erano così, ma questo un panino sembrami, di quelli allungati, un panino, o una spianata arrotolata, quindi sono uno ti sazia, e noi li abbiamo presi tutti e due, sia quelli verdure e quelli da carne. Ma guarda, noi siamo di bocca buona, sicuramente ci piaceranno. Abbiamo preso anche quella salsina agrodolce che è avvolgiata con gli involtini. Mi si è spento il forno, dai, devo mettere nei piatti e mangiare, dai, ci sentiamo o più tardi o quando capiterà, dai. Comunque ieri ero a casa e niente a mare, ma era deserto, non ho sentito nessuno personalmente. Ieri avevo gente a casa, per cui non ho potuto accendere. Purtroppo è stato così, vabbè. Comunque, buon appetito allora Marco, dai, fatti sentire dopo. Tanto qua si impegna a pranzare. 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, dai. Poi magari se entri subito non ti abbiocchi. Se invece ti sentieri, allora magari si viene veramente da biocco. Vero, Natale? Infatti. Vabbè, comunque. C'è oggi Natale, c'è un bel po' di vento, La canna pesca si sta muovendo. Aspetta, deve essere sente qualcosa, non riesco a capire nulla, che c'è un abbaio, questo cane pauroso. Deve essere un tenore, sarà un cane tenore, per cui cosa ci vuoi fare? Dai un panino, giù, scusate, vedrai che si calma. Ma abiti dal bigliato di suo cane, abiti. Ciao giù. Ciao Cla, un cane lo prende il tappo del capo, non lo so io. Dai un panino giusto, così lo segheggia e non abbaglia il volatempo. Vero Cla? Allora, abiti la pigliata di suo cane, un tenore, un tenore di bitti di suo cane, scivola via il gatto. Si tiene un abbaglia tutto andato. Buonasera. Io se vi dico mi sono alzato poco fa, con questo fresco che c'è, questo vento che sta entrando a casa, con le finestre aperte, ti dico che mi ha dato la possibilità di riposare oggi, veramente, rilassamento totale. Sono andato a piazzare i segni stamattina, qui c'è un mondo, via, un mondo, farò un po' di spesa e poi me ne sono rientrato a casa. Ma sì, perché sì. Diciamo sì e no, dai, recupero qualche giorno per staccare un po' la spina, perché no, se non ce la faccio poi a continuare, capito? Ho chiesto un paio di giorni. Ieri ero appunto a riposo. E oggi sono rimasto a casa. Ci vediamo domani. Se c'è necessità ci faccio un salto, se no. Riposo anche domani, così c'ho poi tutta la settimana, mi tocca anche domenica, quindi c'ho tutta la settimana piena e almeno sono un po' più rilassato, dai. Ok, se ci vuole riposo, dai, già il periodo questo è giusto, come un po' di riposo non può, tanto lavoro ci vuole, ci mancherebbe altro, te lo credo. Avanti Natali. Ha sentito quello del secondo piano, che lo abbaia sempre, che in chi bisotto va bene con un altro. Ma quando dice abbaggi chi su questo marontano di miti a vero, mi sa di tu Claudio. Ciao Claudio, buonasera. Ciao Natale. E poi lì con l'ambiente che hai tu, capito, è ancora più rimbombante la cosa. E vabbè, però non mi filippo, ho mangiato, sdraiato lì vicino a mia figlia, che c'è una figlia a casa e non si muove la novella, sdraiato lì vicino a lei, tanto sono già risetto, non so se lo porterei o lo porto io, dopo vediamo. E vabbè, sì, un bel maestrotto, però ha dato nuovamente questa perturbazione di aria calda tra mercoledì e giovedì. Speriamo di no, porca miseria, stati ci bevo questo vento greco, grecale, maestrale questi giorni. Si riposa bene, si può uscire tranquillamente. Vabbè, lo stesso. Allora, ti comunico che il portiere abbiamo comprato è Szczesny, è della Juve. Bernardeschi altrettanto. Cecilio lo stesso. era venuto, per cui va bene così. La formazione Buffon, Decimio, poi l'altro chi è, non me lo ricordo l'altro chi è, poi Chiellini, Asamoah, no Asamoah, Alessandro, poi Roma, ma per dire da quel vintiano, quello che ha comprato la Roma l'anno scorso, poi all'attacco, Douglas Costa, poi abbiamo Dybala, Higuaín e Costa, Bernardini. Che mi ha detto Bombardione? È Mandzukic. Anche quello, lui, quello era appunto quello che mi ero dimenticato. Decimio, Matic, appunto, Chiellini, Alessandro. Poi l'altro che era centro campo, non me la metto, dopo te lo dico, dai, cosa mi viene meno. Sì, ma la ricorda cos'è? Difensore, no? Quindi i tre difensori, Chiellini, hai detto Matic. Matici, quanti esigiamo? Era voi e Decilio, quelli sono i tre difensori. Allora, la trasformazione potrebbe essere Cancelo, questo Cancelo è un difensore, Matici è centrocampo, naturalmente, poi c'è Lugani e tutti quelli, no? Asamoah riconfermato e vende a quanto sembra anche il coso lo può riprendere la Juve, questo Schick ha una piccola aritmia, no? Perciò non è così grave la situazione, basta quindi 45 giorni di riposo e si riprende il giocatore. Schick è forte, è un attaccante di lusso, scusa, c'è il campo, c'è Pjanic. Pjanic, Matic e Pjanic, sì, con i due. Me lo succede che Pjanic non deve mancare. Pjanic è secondo Pirlo con la Juve. È un bel centrocampista, anche regista, ha un ruolo molto importante nella Juve, poi su punizione. No, quindi, di sinistro di Bala, di destro Edo, non ce n'è per nessuno. Ma va via anche Cuadrado, quindi. Cuadrado, Lichtsteiner rimane. Sì, a quanto sembra sono riconfermati sia Lichtsteiner che Cuadrado. Allora, ce lo ripeto la formazione, adesso mi è venuta in mente di nuovo. Allora, Buffon, Decimio, Manolas della Roma come difensore, Chiellini, Alessandro, Matic, Pjanic, poi Douglas o Douglas, come si vuoi chiamare, Dybala, Higuaín e Bernardeschi. E quindi Manzo che ci va dentro la banchia, fa di Uga Bernardeschi. Questo è quello che si pensa, questo è quello che scrivono i giornalisti, poi bisogna vedere se è così la questione. D'altronde la Juve deve avere due squadre, due vice della Champions, deve avere due squadre dei titolari, e non come quelle dell'ultimo campionato che con Solano, con Rincon e qualche altro non si andava da nessuna parte, l'abbiamo visto. No? Ho capito, però Manzo che c'è più forte Bernardeschi giù, non lo so, secondo me gli alterna come faceva Morata Dybala, un tempo per uno, sicuramente, non lo so, comunque, ho capito, quindi il portiere abbiamo già preso, e vabbè, speriamo bene, perché il Milan sta facendo una bella squadra, sì, e poi anche l'Inter sta facendo una bella squadra, quindi secondo me il campionato di quest'anno è ancora meglio di quello dell'anno scorso, la Roma c'è una bella squadra, il Napoli, vediamo se Di Francesco col Milan riesce a tirare su un po' più il morale rispetto all'anno scorso, vediamo, cioè col Milan, con chi è? Con la Roma. Lo so, purtroppo subito. Poi sto vedendo Milan in arrivo Sanchez, che è questa, boh, non è possibile. E dico Milan che deve andare carene a me, boh. E avrebbe stato voi a fare la buia a frenarli questa gente. E arriva Dara. E cazzo, tutta la squadra ha cambiato. Guarda che si rimane solamente Donnarumma e Corso. Buonaventura, l'altro, come si chiama? Ma, il terzino, di sinistra, non lo so, comunque tre solamente, stando a quella, a quello che si dice, bisogna vedere. Daga di qua, Daga. Sanchez è forte, proprio in cielo, mi la sta facendo per la squadra. Tu vedrai che Bonucci col Milan dà dei grandi risultati, cosa che non ha fatto la Juve, capito? Vedrai tu vabbè, a vedere come ti dico che avessi un vestito, vabbè, vediamo dai, andavo a tutto il dicevo, io ancora non sto seguendo niente sul premio, ma è la verità, voglio aspettare all'ultimo proprio per rendermi conto com'è la situazione. Avanti, Tartari. E un attimo, sto facendo cosa? Sì, vabbè. È nuda, vabbè, giù. Voglio vestirci. Facciamo rifare. Comunque, il campionato è ancora piuttosto l'anno scorso. Io volevo partire in quarta, perché se parte con le marce ridotte, devo prendere punti subito e cercare di non perdere le prime partite, partire subito vincente, perché ti ripeto, il Milan, l'Inter, la Roma e Napoli quest'anno fanno grandi risultati, ma risultati a vero, parami. Beh sì, ovviamente quest'anno le squadre sembrano che sono più attrezzate, sicuramente l'Inter e Milan sono più attrezzate. Anche Napoli vabbè, è una squadra che lo sappiamo, è forte, più qualcuno gliel'ha comprato, qualche rinforzo già se l'ha comprato, ma è poco cosa, è poco conto però. Poi la Roma si sa, anche la Roma è sempre la Roma, è una bufatura, no? Per cui chi dà ragione, quest'anno dovrebbe essere un campionato tirato proprio allo spasmo per tutti. Dovrà darsi da fare veramente la Juve, ma dunque adesso quest'anno Higuaín con me fa 40 gol, magari. Sì, vabbè, a vedere, si informa, l'anno scorso non era così in forma, è partito bene, poi ha rallentato tantissimo. Ascolta, quel bomba dell'Inter c'è ancora, Cardi. Sì, beh, quello è il padrone l'Inter, quello, l'Inter fa quello che dice Cardi, non si sa. Infatti Spalletti è un po' carino, non è stato di buon umore Spalletti, si aspettava qualcosa di più. Ecco, il nuovo Milan, Musacchio, Bonucci e Romagnoli, Cecce, Biglia, Buonaventura oppure Calhanoglu, Conti, Rodriguez oppure Belotti, Kalinic e Alessandro Silva. Papagopoulos pure ha preso. No, si pensa, non l'ha preso, non lo sta trattando, bisogna preso un virulante della Fiorentina, cioè il Torino, perché Belotti intanto questa un bel. E per quello il Real Madrid ha offerto 95 milioni alla Juventus per Dybala, ha detto vai al cinema, ha vinto la Juventus. Non si muove da lì, no. Vi racconto, curia pure Alessandro. Lui non si muove dalla Juve, Alessandro. Era per vedere la Juve, non me ne frega niente, ho detto vuole giocare con la Juve e crescere con la Juve. Infatti sta crescendo tantissimo. Beh, è cresciuto e sta crescendo. Tra l'altro Milan. Ui. Ci va pure, Ciu, sono forti quei giocatori, Lo so, l'attacco è Milan, sta pensando di prendere Aubameyang, Morata, Belotti, insomma uno di quelli lo vuole prendere, bisogna vedere se ci riesce, e chi lo sa, Morata 80 milioni mi sembra che costa adesso, Aubameyang pure se ne parla, anche quello è fortissimo, forse meglio di Morata, senza forza secondo me, poi c'è Belotti. Beruti, che Beruti per me è il meglio di Morata, lo sento. Morata io penso solo quando l'ultimo campionato che ha fatto la Juventus non era nella classifica dei cannonieri, non era tra i primi 20, tra i primi 20, ti puoi immaginare. Morata, che è bravo, a me non mi piace di più di tanto, la verità, non segna mai, o è sfortunato, non lo so. Io vabbè, c'è un bravo giocatore, si è parlato al piede, già segna, ma la giù. Ascolta, è quello della Juve, Piacca, sempre c'è, ma non gioca più, dicevo, sempre fortunato. E chi? Quello della Juve, Piacca. Cacca, e lei è con Cacca? Piazza, è quello lì, si sta allenando ma si sta anche curando ancora, che non è così, no? Quello fino a novembre non penso che possa giocare. Piazza, tu stai dicendo? Sì, Piazza è il bicho. Ehi, ha fuori a Bernardeschi al posto di Piazza, perché Bernardeschi può saperlo, non è uno scherzo, è uno che... è uno che segna anche con primo e poi è uno che sa fare cross, se le mette sui piedi, se le mette le palle. No, speriamo bene. Le palle girano, non si trovi ai guaini di palla. Abbiamo bisogno di partire subito e bene. Ribadisco che il campionato quest'anno è tosto. Le squadre ci sono, Milan ha fatto la squadra, come ha detto Montella, per entrare in Champions. E si l'ha detto Rubati, Montella nel Milan ha dimostrato di essere un buon allenatore. Poi Spalletti all'Inter, col carattere che ha, non si yoga con l'Inter, capito? Devo usare Spalletti come te. Quindi l'Inter c'è, il Milan c'è, la Roma come sempre, il Napoli come sempre, bisogna stare attenti a quelli che sono entrati in Europa League, come la Lazio, la Lazio è forte lo stesso, perciò, vabbè, aspettiamo il campionato, vediamo. Ok, mi anche adesso lo sto leggendo, mi Douglas Costa, con me i guai fa 40 gol, magari, speriamo bene, comunque questa è una meraviglia. Guarda che sono due esterni d'attacco, uno a destra e uno a sinistra, Douglas e Bernardeschi, che poi intanto possono giocare sia a destra che a sinistra tutti e due, no? Prima di tutto. E poi può giocare anche da stesso campista Bernardeschi. Perciò è forte, e poi non sappiamo, il nazionale, direi che sia il migliore del nazionale, è Bernardeschi. Per cui è un buon acquisto. 43 come Rioni, non lo so io. Vabbè, speriamo. No, Douglas Costa lo so, l'ho visto giocare, è un mostriciattolo, Bernardeschi lo stesso. Questo Deciglio non è che mi convince molto. Deciglio l'ha voluto Allegri perché lo conosce bene, non mira un po' e l'ha calato. Infatti l'ha pagato solo 15 milioni. Ma l'ha pagato così poco perché col Milan era calato, ma era tutto il Milan che non funzionava bene, per cui guardate invece anche Pirlo sta viene mandato dal Milan perché non serviva più ormai, poi è diventato il miglior centrale di centrocampo, per cui aspetta, può darsi che lo rivolisca a Allegri, e chi lo sa, sai, quando cambiano di squadra le volte questi giocatori si riprendono tutta la grande. No, vediamo giù, vediamo, ti ripeto, io meglio che la Juve, per me la Champions la poteva vincere, la vinceva se non succedeva quello che è successo, capito? Che è successa una cosa che ha smontato un po' tutto lo spogliatoio, infatti se entrato in campo non comprendere più nulla, non sa bene più la partita, capito? Perché in 10 minuti hanno preso 3 gol, quindi come si è già detto. Perciò se la Juve fa il campionato che ha fatto e si gioca come ha giocato l'anno scorso, è pur certo che l'anno scorso questa chiamata lì. Eia, sono qua. Sono qua. Finalmente ho finito. Meglio così. Sempre travagliando lì. Papà. E non mi sono posto questa roba, bisognava farla. Beh, vabbè. Quando bisogna fare, bisogna farlo e basta, beh, certo, ma lo credo. Vabbè. Ma la cosa, ma se siamo niente, giustamente la manca, siamo niente. Sì, davvero. Vabbè, adesso magari. Ma anche se si è già addormentato, non credo. Attento Marco. Aiuto, lascia stare questo piatto. Marco, non ti mangia pure la manca. Attenti che propagazione che c'è. C'è un rumoraccio veramente, poi c'è la televisione accesa, un macello, era. No, stavo ascoltando che c'era appunto il coso, Milano mola, vuole il gallo. Lo so, ma bisogna adesso il Torino glielo là. Mi adesso ho letto anche che per Morata 90 milioni lo riavvaliti. Ma quando mai il giocatore da 90 milioni Morata? Ma vai! Ma cosa? Con 90 milioni avevo pagato dai guarini, no Morata, cosa? Che qualsiasi musica è? Morata 50 milioni, 40 milioni di euro, vabbè. 90 milioni non si rivale un giocatore che non ha. Higuaín, cosa non esiste assolutamente. E vabbè, godiamoci ancora questo riposo, poi vediamo prossimo mese quando comincia il campionato, che ancora non sappiamo con chi gioca la Juve, la prima della Juve qual è? Non si sa, il calendario ancora non l'hanno fatto, ancora il calendario è in alto mare. Noi giovedì è fatta la Juve, va a fare la tournée in America e vuole portare anche Bernardeschi, per cui sta accelerando le ultime trattative, perché vuole portarlo in tournée. Perciò così è. Bisogna muoversi. Sì, vabbè, ci muoveranno. Andare. E allora la tarita, tu appunto hai messo? Eia. Chi era quello che... Chi è che mi ha chiamato? Sto spaccando, cosa sto spaccando? Niente. Avanti, chi è che mi ha chiamato? Va pure. Ha detto che sto spaccando di tutto, tu avevi credi qua. Ehi, magari vicino a te, qua sei più basso del solito. Con quarantena però, sei 9-10 abbondante. Natalino è che mi pacchetti tutto, 9.30 sì Natalino. Cosa hai buttato? Un buio sotto? No, anzi sto uscendo, anche più basso del solito. Ma non vai Santenna, lavoro tocca, abbiamo fatto 9 più 30 sì, 9 più 30, pieno. Sì, quanto è Marco? Alla grande stai andando veramente. Bassa di Sant'Enna, si tirati un paio di metri in su Maria, ma lo sapevo che la posizione è buona da lì. Mi ricordo quando parlava io da quella zona, arrivava una bomba qua. Vabbè, forse ti arrivate Natalino giù. La voglia, 9 più 5, la radio fortissima, rimodulate 9-10. Ehi vabbè, poi tu c'è quell'altra lì, ma se lo ricevi con l'altra, è 9.30 pieno, andare. Ehi, già sta andando bene questa antenna, questo di Polo. Io sono andato anche con la Spagna, in tutto ieri, non c'era nessuna frequenza. Allora sono salito a 27.500 lì con la zona lì. E ho parlato con la Spagna, ma alla prima chiamata mi hanno subito risposto. Poi l'ho salutato e ho chiuso subito. Ho chiamato solo per vedere se arrivavo. Poi il volo con Verona, Venezia, quella zona lì anche. A voglia, va. Allora, okay. Con 5 watt, anzi di meno, vediamo lì. 4 watt, ripeto. 10 watt adesso sono 10 qua. Adesso qualche cosina ho aumentato anche la testa sicuramente. Aspetti che sono un attimo al telefono. Data lì, così, da te quanto arrivo? 9,5. Aspetta un attimo, a 10 watt adesso. Adesso sono con 10 watt. 9,5 quasi, 9,3, 9,2, 9,3. Prima cosa ne avevi? 20? No, sono di 10, l'ho messo adesso a 10 watt. 9,2 mi seguo, adesso ho messo gli occhiali a guardarlo bene. 9,2 dai, sono appena arrivato. Però quando muoio mi arrivo anche a 9,10, muoio avanti. Lo so. Ero con meno di 10. Dovrei affrontare. Ok. Anch'io li tengo bassi, tanto se lo scalda cada fino al sud, non me la faccio fare, va bene così, a voglia. E infatti forse c'è Marco sotto, avanti Marco. Io ho fatto un bip, eccomi. Allora, gli involtini primavera, nonostante fossero confezionati e non freschi, infatti al momento hanno avuto successo. Mamma ha detto che li ricomprerebbe subito. Questi erano quelli alla verdura. Poi domani, o quando capita, proviamo quelli alla carne. Comunque li ricompriamo. C'è una cosa fondamentale, l'involtino primavera rende molto molto di più con la salsina agrodolce. Noi ce l'avevamo, l'abbiamo aggiunta ed era tutta un'altra, come dice Claudio, un'altra gupa a me. Vai Giulio. Ok. Noi qui gli involtini facciamo, compriamo il carpaccio e fa mia moglie, poi ci mette lì quello che crede, tipo che so io, fettine di gluviera, affettati, queste cose qua escono buonissime, non buono, buonissime sono. Il carpaccio si compra, le mangio al mercato, ecco, sono con le fettine sottili, no? Sono fatte apposta proprio per avvolgermi così. Anche quelle che ha mangiato tu sono fatte così, col carpaccio. No, niente carpaccio, praticamente una pasta sfoglia, insomma, un involucro che richiude al suo interno, è cilindrico, no? Della verdura, tagliata a filettini. Invece in quella la carne, al posto della verdura c'è la carne. Ed erano quelle cose di Lidl, quelle offerte che arrivano ogni tanto, cose cinesi, cose americane, cose francesi. E a me è piaciuto, soprattutto con la salsina, perché senza salsina perde molto. È come mangiare la pizza senza il sugo, in poche parole. Certo, io li ho gustati freschi, mi Giulio, dai cinesi, al ristorante, infatti al momento sono già un altro mondo, ma è come paragonare, guarda, la pizza mangiata in pizzeria che esce dal forno, e paragonare le pizze, quelle confezionate, sul gelato della Findus, è tutto un altro mondo, però sono buone lo stesso. Sì, beh certo, beh, la pizza fatta in pizzeria è tutto un altro discorso, io lo credo. No, il carpaccio, quello che facciamo noi, sono delle fettine di manzo, però sono fettine sottilissime, perché devono essere avvolte, no? Vanno avvolte insieme a degli affettati, dei formaggi, queste cose qua. Non sono la fine del mondo, sono buonissime veramente, guarda. Sono fettine sottilissime di manzo. Ecco com'è. Costano anche, però vanno bene, vanno molto bene. È un buon secondo, insomma, ecco. Tutto lì. Avanti, in alta. Sì, infatti, io già. Non è un pareggio di questa roba, chiamate così. Cosa fai? Che ne fai tu una talicque? E allora? Appunto, io quando compro il carpaccio e mia moglie fa appunto queste cose qua, questi voltini, sono buoni. E gli stuzzichini ti piacciono, quelli stuzzichini di pollo o di maiale, quelli nella bacchetta di legno, nello spiedo di legno, o Marco, non li hai mai mangiati? Oh, scusa Marco, devo uscire a niente, ci sentiamo dopo. Ok, vai Marco. Ciao Claudio, non ti avevo salutato perché ero andato via prima. Mi hai sentito, dai, e a dopo, dai. Ciao. Ma tocchiamo un ferro, scusa. Sì, che Giulio, provati, e ogni tanto c'è un pezzo di carne, un peperone, sai, quelle cose lì, sì, sì, sì. Purché siano teneri come carne, perché io ho i denti, insomma, così così sono. Ehi, bene, sì, ogni tanto portano cosettine, l'altra volta abbiamo preso il chili con carne in barattolo, era roba messicana. Il sapore era buono, è piccantino, solo che la carne certo non è a pezzettoni. Se vuoi vedere la carne lì devi pigliare il microscopio. Insomma. Sì, beh certo, no, ma quando è di pollo già sono teneri, a voglia. E poi sono anche più buoni secondo me, perché quando sono di maiale, alle volte sono troppo grasse. E secondo dove li compri, quale negozio li compri, non è che sono molto buoni, è la verità. Io ad esempio li compro sempre lì alla Sibima, via Pascoli, quel negozio lì. Mentre invece li ho comprati anche qua alla Crai, qui a Ripunti, c'è un supermercato anche qui. Quelli rimangono più pesanti. Poi la tenere stesso mangiando, è troppo grasso. Siccome a me la carne grassa non mi piace, io dalla carne il grasso lo tolgo sempre, da tutto. Arrivo fuori dalla pancetta, ma anche dalla pancetta ne tolgo grasso anche quello e mangio solo la carne. Però diciamo che un pochino di grasso ci vuole nella pancetta, se no lo stai mangiando niente praticamente. Però comunque tutto è buono, poi tutto quello che piace a bocca, il cuore tocca. Non è così Marco? Sì, poi io bene o male sono un gustaio, magari sai cosa non tollero tanto? La verdura cotta, bietola, quelle cose, non mi piacciono tanto, però sai come le mangio? Se mamma me le fa frittata, cioè prima la cuoce, no, quello, me le fa frittata un uovo, no, proprio una frittata, cioè frittata di verdure, frittatone di verdure, allora sì che le mangio, aspetta, che adesso i carciofi in verde, come voi, non so come si chiami, non, sì, mangio il cuore, però le foglie le sento molto, i rigidi delle foglie già tagliate, ma se me li fai arrosto i carciofini, tagliate a pezzi, fatti arrosto, ma cosa sto dicendo, scusa Giulio, i carciofini tagliati appunto e fritti, i carciofini fritti, mamma mia, mamma li turchi. Sono buoni, certo sono buoni. No, a me già piace, la cosa fritta mi piace tutta, la verità. Le fettine panate, le melanzane, le zucchine, mi piace tutto a me, quando è fritto mi piace tutto, la verità. No, non ci sono problemi. Che poi mangio tutto, qualsiasi cosa, anche se la cosa non mi piace molto, mangio lo stesso, non è che lo ripeto. No, che ci sono delle cose che preferisco, ad esempio, nella pasta asciutta mi piace di più la pasta corta, come ad esempio le farfalle, cosa che qui a casa non va molto, non piacciono molto, mentre invece a me piacciono. E poi quelli come si chiamano, bucatoni, burro, una cosa del genere. Quelle rotonde che sembrano delle cannucce, lunghe, saranno 4 cm, 5 cm, come si chiamano? Rigatoni, anche quelli. Poi naturalmente il resto, per esempio, la pasta al forno, la mangio lo stesso, ma non è che ci vado matto, la verità. Mi piacciono più i ravioli, ecco i ravioli sì, quelli sì mi piacciono molto, ma per il resto, poi per quanto riguarda le bavette, mi preferisco agli spaghetti, la pasta asciutta a bavette, le bavette, mi preferisco gli spaghetti, e che siano quegli spaghetti grossi, numero 5, se sono numero 3, li mangio lo stesso, ripeto perché mangio tutto, però no, non è che li mangio proprio con soddisfazione, mi piacciono più quelli più grossi, quelli numero 5, capito qua? Via. Sì, anche a me piace di più la pasta corta, gli spaghetti un po' meno, pensa che sempre passa, solo che non so la forma, a me piacciono le pennette rigate o mezze penne rigate, capito? Quelle forate, no? Tagliate un po' di sguincio, dove anche il condimento va dentro la pennetta, molto buone. Infatti io quando ero solo, quando mi facevo la pasta, prendevo sempre pennette rigate, quelle piccole. Riprendi un po', Nathalie, il computer ha risolto? Sì, sta mettendo l'ultima cosa, mi ho fatto anche un disco di riserva. Il disco l'ho ripristinato, quello che mi aveva guastato Linus, e me ne ho fatto un altro da un tera, infatti sta andando questo da un tera, l'altro è da 500. Bene, bene. Il computer è una croce e delizia, capito? Pensare che il primo era stato un disastro, comprato da amici, capito? Gravi problemi di incompatibilità o non so cos'altro, se non pezzi di recupero. Invece quello preso nel 2004 è stato un carro armato, è durato fino all'anno scorso. Poi penso che la scheda video sia partita, se la trovo la cambio, è tutto lì, dai. Anche il mio, il computer, quello da solettista, quello da base, diciamo, il programma, quello come si chiama, Windows, qualcosa del genere, con quello no, non ce l'ho più, problemi più facile, che avevo installato Ubuntu, quando mi hanno installato, perché l'altro non prendeva più, non so per qual motivo, adesso non so se si può formattare di nuovo, se non lo so, io non è che me ne intendo molto di computer, non me ne intendo niente, guardo il giornale, io mi guardo qualche cosa di elettronica, poi per il resto non mi interessa per il tanto, non è che mi piace così tanto Ubuntu, il computer. Ti hanno piacciato Ubuntu, sì, la conosco, Ubuntu è una delle tante versioni di Linux, ma quella riesci a usarla? No, non me ne chiedo perché non lo so, mi hanno piazzato quello perché quell'altro Windows, come si chiamava l'altro che c'era prima, quello solito, no, quello non c'è più, non prendeva più, per cui quando mi hanno questo Ubuntu. Sì, sì, sì, una delle tante cose di Linux. Io l'ho provato lanciato, uno di questi Linux, l'ho provato all'avvio dal disco CD-ROM e te lo carica nella RAM, però non sono pratico, certe cose richiedono i permessi, non so come sia, non ho voluto approfondire, dai, tanto non faccio cose speciali, almeno non più. Prima, vabbè, mi divertivo molto di più al computer, mi hanno tirato le orecchie, allora ho capito l'antifona, ma poi i tempi anche sono gabbiati ormai, i computer sono sicuri tra virgolette. Infatti, quello sì, però diciamo che già avevo comodità, ovvero io lo praticamente facendo quasi tutti i giorni, poi già abbiamo l'altro, il portatile, quello è nuovo, non lo accendiamo mai, io accendo sempre quello da base, dai, computer da base, solo che tante volte, perché sei vicino, ti manda troppo caldo, quando comincia a scaldare adesso col caldo, non è così piacevole da stare lì attaccato al computer. Bravo. Non so se si può ripristinare quello Windows, non lo so, dovrò formarmi a chi ne capisce veramente. Vai Natalia. Non stavo seguendo, mi dovete scusare, ma sono impegnato facendo una cosa importante. Ok, la senti la propagazione, Marco? Come Giulio? La propagazione la senti? Sì, poco fa, guarda, prima che entrasse voi sentivo queste voci, vocine, vocette, e siccome non volevo il silenzio, per vedere se entrava qualcuno, ho alzato lo squelch, abbastanza, in modo da non sentirle, tuttora è alzato, sa che poi ogni tanto voglio entrare, attento amico italiano, io certe volte proprio non ho voglia di fare di Expo in AM, macello, poi ci ho l'omologato adesso, quindi comunque trovate poco mi sentono. Ce n'è, magari sui canali alti in standard laterale ci si diverte molto di più, e pensa che noi stiamo toccando il minimo del picco solare, perché il picco solare c'è ogni 11 anni, noi adesso siamo quasi in un buco nero, e quindi se stiamo toccando il minimo del picco solare, il massimo sarà fra 5 anni e mezzo, dove la propagazione sarà più selvaggia proprio. Allora sì che ti diverti. Ok, anche ieri ho parlato, ma non è che mi attira più di tanto ormai. Ieri non c'era nessuno, sono passato a 27.500 in quella zona lì, dai, in quella frequenza più o meno. E ho chiamato con la Spagna, ma ho risposto subito alla chiamata, poi ho chiamato anche Verona, Venezia anche, e mi hanno risposto tranquillamente con questo di polo, poi ce l'ho basso, è molto basso, se la metto in alto già la spara veramente, ma questo è in basso, è un metro da terra, si può immaginare, se nel terrazzo non è al posto dove avevo l'antenna prima, no? Questo di polo, quello lì, se lo metto al posto di dell'altro rende quasi l'antenna, forse anche di più, capito quanto? Eia. E dove è puntato il tuo dipolo praticamente? Vabbè, c'ha due direzioni, ma cos'è, nord, est? No, un dipolo fatto in verticale l'ho messo in verticale con una canna a pezza, dai. Ah, verticale, stavo pensando di polo orizzontale. No, perché in un dipolo orizzontale tu cosa metteresti? Io metterei nord-est, orienterei a nord-est, in modo da beccare bene o male nord Italia, il centro Italia, beh, un po' meno il sud Italia magari, perché sarebbe troppo giù, tipo Sicilia, Calabria. Sì, nord-est lo metterei personalmente. Se lo metti orizzontale, messo a un metro da terra non prende niente, è troppo basso. Quando un dipolo è fatto orizzontale vuole alto, più alto possibile, ma almeno una decina di metri dal tetto in altezza, se vuoi che ti renda, se no prende poco e niente. In verticale comincia a essere un po' diverso, per cui è già qualcosa di vantaggioso, dai. Anche perché questa frequenza lavora in verticale, per cui va bene ottenerlo così. La canna da pesca l'ho fatto con Marco, capito? Però è bassa, è in terra, è un metro, si immagina che fa un metro di casa, ecco, un metro alto. Salgo su nel terrazzo, è un metro alto dal pavimento, che poi è chiuso, l'antenna è chiusa dai quattro muri del terrazzo pure, che si può immaginare, è messo in una posizione, ma l'avevo messa lì per accordarlo, no? per vedere le stazionarie, eccetera, per poi trasferirlo nel punto alto a 5 metri e oltre da dove adesso, se lo metto lì allora il discorso cambia, no? Sì, certo che cambia. Adesso fra poco mi rilascio un po', vorrei vedere un telegiornale per alle 8 per vedere la situazione degli sbarchi. Che ora è? 8 meno 20 passate, quasi meno un quarto. Vorrei vedere la situazione degli sbarchi, ma ogni giorno a 1.500, a 2.000. Mamma mia, fra un po' non sappiamo dove metterci, dimmi questi. Purtroppo sono esseri, cioè purtroppo, sono esseri umani anche loro. Non è che, come dice Natalino, gli spari una cannonata al barcone. Infatti, l'unica cosa sarebbe quella. Dai, fagli saltare là e così prima di arrivare da noi. Non è possibile, dai, non possono venire. Ma dico io, ma l'intelligenza anche di questa gente, vengono solo già dei disperati. E vengono qua per rimanere ancora disperati. Che motivo hanno di venire qua se sono poi buttati così? Stanno l'abitare accanto. Tu vedi là, ma sono in alberghi, sono insomma, diciamo hanno un posto dove stare. Sì, ma la vita è sempre quella, è sempre una vita da morte di fame, perché tanto vale rimanere nella tua terra. Ma comunque una cosa è certa, questo governo italiano ha fatto troppi danni con questo fatto degli extracomunitari, troppi, perché non è possibile accettare tutta questa gente, ma non vedranno loro quello che stanno facendo. Ma sai cos'è? Questi che arrivano sono soprattutto giovani, no? Al paese loro immagino che non facciano nulla, siamo buttati così. Però almeno qua, oltre che non far nulla, c'hanno il vitto e alloggio, capito? Loro devono solo portarci cibo alla bocca, non devono fare altro, quindi li vedi lì che vagano. Certe volte li vedi lì che non portati così, che non sanno nemmeno loro cosa fare. Purtroppo l'altro giorno c'era quella, come si chiama, una politica giovane, dice, ha detto qualcosa tipo, questi sbarchi non avranno mai fine, bisogna mettere un freno, che non è possibile ne arrivino 1.500-2.000 al giorno, se non di più, perché certe volte fanno sbarchi multipli, mi pare che in 2 o 3 giorni ne erano arrivati 5.000, in varie parti distribuiti in varie parti d'Italia, immagino sempre le coste del sud, no, ovviamente. Allora, sabato e domenica ne sono arrivati roba di 6.500, perché ne sono arrivati sabato 5.000 e domenica 6.500, che si può immaginare, fa calendario. Però adesso siamo troppo invasi da questa gente, poi è bello questo, l'italiano senza casa e senza sostegno, e loro che hanno quello che hanno, e ci sono troppi interessi da parte della politica, chissà quanti ladroni ci sono, grazie, con la scusa che prendono soldi dalla comunità europea, che dicono che le danno 35 euro al giorno. Chissà quanta gente c'è che ci sta mangiando, chi lo sa, noi non sappiamo queste cose, però per carità, non c'è da meravigliarsi con tutti i altri politici che ci sono in Italia, ti meravigli se poi rubano anche da quello. E poi sa cos'è? Molti sono nigeriani, della Nigeria, lì è un po' soprutto. C'è violenza, c'è traffico di esseri umani per la prostituzione, rubano anche, non sono come i senegalesi, no, che sono bravi, quelli sono più, vengono da un posto più violento, dove sono crimini, fanno traffico di droga, di tutto e di più, capito? Sai quante volte hanno beccato nigeriani e nigeriane che avevano inghiottito gli ovuli di cocaina, no, per fare da corriere, diciamo, e li hanno beccati puntualmente. E mi pare il cane, se non sbaglio, riesce a annusarla addirittura da fuori del corpo, lo sai. E comunque se ne accorgi dal nervosismo di una persona, no, che ha fretta di andare, quando arrivano alla dogana, lì alla frontiera. Sì, infatti no, con quei cani no, non se la scampano, li beccano sempre, li beccano, per cui no, non c'è la meraviglia, il cane ha un olfatto straordinario, anche se ce l'hanno nell'intestino, guarda, li becca lo stesso, non c'è da fare, lui, comunque, non so, sì. Tu pensa che quando è ieri, siamo a Vadini, hanno fatto una partita di calcetto lì a Usini, locali contro questa comunità, a un certo momento si sono tutti azzuffati, per una partita di calcetto, per dirti no, come sono questa gente, come la volete dire. Ma, vediamo, è andata lì, e beh, vabbè, dai, vediamo se rientra, se no fra poco mi attacco alla TV. Purtroppo, guarda, l'ultima volta che sono andato al mare, non oggi, qualche giorno fa, c'erano un sacco di questi neri alla rotonda, lo sai, a volte si facevano il bagno, oppure c'era un andirivieni continuo di questi qua che arrivano lì, si guardano intorno, scambiano parole con gli amici ed erano tutti lì anche posati alla rotonda guardandosi il mare. Ma c'erano, guarda, quel giorno c'era poca gente, c'erano più neri che italiani. Sì, la voglia. Basta pensare tu, loro hanno visto a luglio e poi chiedono delle mucina, chiedono, tu in qualsiasi negozio che vai, c'è sempre qualcuno davanti alla porta che ti chiede delle mucina. Io nemmeno le rispondo, se puoi immaginare, perché dagli anche l'offerta significa incoraggiarli. E chi gli dà l'offerta secondo me è uno stupido, perché già lo stiamo mantenendo e tu gli dai anche delle mucine all'offerta. È bravo, sì, proprio intelligente, la persona intelligente. Io sono del parere contrario, per me l'accattonaggio non deve esistere, per cui è già troppo che paghiamo per questa gente e poi dobbiamo anche dargli l'offerta. Non si può assolutamente. Così vi incoraggi a stare sempre di più e a venire sempre di più qua di queste persone. Ma comunque ti prendi. Sì. Un po' la colpa anche dell'Europa che dice che bisogna accogliere. Purtroppo l'Italia è lì, è in mezzo al Mediterraneo, quindi tutti sbarcano lì. Certo non sbarcano in Costa Azzurra, in Francia, no. Siamo molto vicini a quei paesi. E cosa vuoi fare? Certo non li puoi mandare indietro quando arrivano. Però il colmo che mandino le navi militari e la Guardia Costiera proprio ai confini con la... proprio le mandano nelle acque della Libia a prenderli, e il colmo è, a domicilio vanno a prenderli, qual è veramente il colmo? Infatti, vanno proprio a domicilio a prenderli, sono i politici italiani che sono stati degli imbecilli, perché avevano loro, ho firmato un documento che li avrebbero accolti tutti quanti, gli italiani d'Italia, questa gente, capito? Però adesso siamo arrivati ad un livello impossibile, non possiamo tenere tutti. Chissà cosa pensavano, magari ne verranno un po' qua e basta. Invece qui si sta trasferendo tutta l'Africa, si sta trasferendo in Italia. Il problema è quello. Ormai c'è un'invasione proprio. Ci sono dei quartieri, anzi, addirittura dei piccoli paesi, che come numero di abitanti sono più loro che gli italiani. Magari i paesi che so io da 100, 200, 300 abitanti, ci sono più extracomunitari che italiani, e non va bene, ormai non riescono più a fermare l'invasione, questi politici italiani. Adesso stanno cercando di rimediare un pochino, ma io dico che non ci riusciranno mai, ma vedremo cosa faranno. Sì, hai detto bene, qua sta arrivando tutta l'Africa, magari quelli si passano la parola a me. In Italia è bello, dice, c'è vita, alloggio, non fai nulla, se tanto rubi non ti fanno niente, capito? Certo, questi se transitassero solo non sarebbe un problema, ma quando si piazzano in pianta stabile qua ci sono questi gestori di alberghi, si stanno facendo d'oro con la scusa dell'accoglienza, lo sai, ci sono certi che proprio si fanno d'oro, se ne fregano poi degli italiani, dei disagi, eccetera. Eccomi. Ok. Marco, in effetti è così. Ma poi c'è anche da dire un'altra cosa, che di quello non ne parlano nemmeno. Io dico che il governo italiano ha sulla coscienza almeno 4.500-5.000 morti o anche di più, tutti quelli che sono annegati. E se loro non li avessero accettati qua, non li avessero accolti in Italia, probabilmente non sarebbero venuti qua e non sarebbero nemmeno annegati, non sarebbero morti, perché secondo me il governo italiano ha 5.000 morti sulla coscienza, quello non lo dice mai nessuno, eppure così, comunque, mi prendi qua. Via. così è, così è. Comunque i nigeriani sono quelli che stanno facendo più danno di tutti, e senegalesi sono al loro posto, capito? Sono al loro posto. I nigeriani sono Fendi Kifu, vabbè che so, è un'altra razza, perciò è così, caro Marco. Sì, lì è un paese violento anche. Traffici di droga, prostituzione, fanno truffe. Beh, era nota la truffa dei nigeriani fatta in Italia, no? Che da un pezzo di carta te li trasformava con un liquido in soldi. È vero che c'erano cretini che ci cascavano, purtroppo anziani, ma cioè, vabbè che uno anziano, ma che uno creda che da un pezzo di carta un liquido spunti da un fuorisoglio è proprio da deficienti, eh. E vabbè, ma la Nigeria è così. È così. Sto dicendo, mio cognato lì, il supervisore della Saipen, stanno facendo, non so se hanno finito, un lavoro grosso in Nigeria, e ci sono nigeriani lì per la manovalanza e si rubano tra di loro, capito? Aprono i container, rubano, fanno di tutto di più, non si riesce a convivere, è un casino, e poi c'è un puzzolenti, fiaggosi, pucci, avanti giù. Sì, quello poi non ne parliamo, per carità, sono uno schifo, sono, è gente che non fa nulla, che non ha mai avuto voglia di fare niente, se no non sarebbero stati così in quei posti, così poveri, chiamiamoli poveri, poi bisogna vedere, che ne so, non capisco per quale motivo. Qui ogni tanto, anche l'altro giorno, a Sassa gliel'ho fatto un'arrestata, ne hanno arrestato 5-6 di questi nigeriani, tutto, perché l'hanno trovato la droga, gli hanno trovato, per cui, puoi immaginare, ma li arrestano tutti i giorni, solo che ormai non ne pubblicano più nemmeno di queste notizie sui giornali. Tutti i momenti ne arrestano per vari motivi, o per droga, o per prostituzione, o perché si azzuffano, o perché rubano, o perché rapinano, tutti i giorni se ne sentono, però cosa si vuole fare? Vabbè, dai, ho fatto passaggio, poi chiudo, sono già le 8, quasi, si prende Marco. Perché stuprano anche, quando capita, se trovano qualche ragazza sola, ci sono stati casi, poi se non è magari nigeriano può essere anche un nordafricano, che ne so, però capita, non dovrebbe ma capita. Non vedo l'ora di sdraiarmi quasi e farmi un pigiolino. Quindi sono, sì, praticamente alle 8, dai, anch'io mi guardo un po' di telegiornale. Purtroppo, dai, mi ho mangiato troppo tardi e baracchina ho potuto fare ben poco, perché dal mare alle 5 ero a casa io e Claudio, c'era un bel vento, siamo stati solo un'ora e mezzo, anzi no, alle 4 e mezza eravamo già a casa, c'era vento, mare mosso, non si stava neanche male però, con le spiaggine seduti. Però sai, il bagno non ne ho fatto, mamma l'ha fatto, lì non teme nulla. È tutto lì, dai. Adesso vediamo, quando non c'è vento ritorniamo. Che non lo voglio il mare mosso, voglio il mare calmo, bello, trasparente, che vedi dove metti il piede, non sia che becchi qualche traccina. Sì, bisogna stare attenti, bisogna stare attenti, no, ma se c'è vento come piace, capito? Come piace. Adesso domani, non so, con la mattina sono sempre così a favonare le porte, c'ho cose da sistemarmi, ma mercoledì sicuramente ci andiamo al mare come oggi, di mattina, sistemo il cane e poi mi diventa il primo pomeriggio, perché bisogna andare al mare. Va bene, allora se state chiudendo tutte e due, anche io chiudo, vado a vedermi la un TG. E poi si cena. Un abbraccio a tutti, ciao Marco, Natalino, Giulio, chiunque fosse un ascolto su 10. A domani, vai giù. Ok, sì, qua, sì, andiamo a cenare. Ci sentiamo domani. Ciao qua. Grazie per la chiacchieratina. A domani. Ciao Natalino, ciao Marco. Grazie anche a voi per la chiacchieratina. A domani. Riprende Marco. Sì, allora ciao. ciao Giulio, buona cena. Claudio, lo stesso, buona visione, buon tutto. Anche Natalino che si era sentato per fare una cosa, dai. Ciao Natalino, sia l'ascolto e le ascoltoni. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, domani.